Gentili colleghi all'ascolto, convergete tutti su Radio 24. Sono Filippo, sono al KM236, sto andando in direzione Verona. Andate su Radio 24 che c'è Beppe Cruciani, il conduttore pastroncio lì. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Mia figlia sta sulla poltrona del dentista che le sta togliendo una piccola ciste nella gengiva e mi ha detto: papà, mentre che mi fa l'intervento voglio il podcast della zanzara. La zanzara, antidolorifico, anestetico. Ragazzi, sono a letto con l'influenza, zanzara manetta. Parlo con il centro sbattezzamento di Milano? Salve, mi vorrei sbattezzare e convertire al culto della zanzara. Caro Parenzo, siamo qui! Sembra che siamo tornati ai tempi di Tangentopoli, caro amico mio. Che gabbia di Matti. Che bello, che emozioni. Ti piace? Il tintinnar di manette, il giustizialismo. Casini, scandali, gente in galera. No, non mi piace la gente in galera, non mi piace necessariamente. Cavalchi gli umori più bassi e retrivi della società italiana. No, assolutamente. Bravo, poi bravo, metteremo in onda quello che hai detto su di me a una radio locale romana. Beh, sono stato anche molto affettuoso, come sai. Anche... Però diciamo hai detto delle cose, poi sentiremo. Ma perché mandi in onda quello che hai detto in altre radio? Vabbè, io mando in onda tutto. Quei miserabili di Radio Cusano Campus. No, perché miserabili? Miserabili che hanno diffuso file audio secretati dalla magistratura italiana. Ma no. No, non è vero, non è secretato. Allora, di fronte a questo nuovo scandalo della sanità lombarda con l'assessore che è stato ammanettato, il signor Rizzi, che è un fedelissimo di Maroni, per carità, sarà sicuramente innocente fino a prova contraria. Anche la moglie l'ha fermato il signor Rizzi. È una cosa incredibile. Se li so bevuti, amico mio, se li so bevuti. Vabbè, però adesso non fare il... No. Stai con le bandiere fuori, se li so bevuti, se li so bevuti. No, dai, sì. È giornalismo il mio anglosassone. Non esagerare, se li so bevuti! Se li so bevuti, amico mio! Giornalismo anglosassone in stile BBC. È quello che vuole anche il nuovo, la Rai. Fai così perché sono della Lega, se fossero di un altro partito non faresti così. Su. No, ma che stai scherzando? Se li so bevuti, amico mio, bevuti! Allora, Salvini dice fuori chi sbaglia. Maroni, fuori chi sbaglia, certo. Vabbè, ma quello è normale, che bisogna dire in questi casi. Maroni, sono incazzato. Senti. Sono anche incazzato, molto incazzato per quello che è successo. Sono veramente incazzato perché il lavoro che abbiamo fatto, che stiamo facendo, che abbiamo fatto in questi 3 anni, che stiamo facendo con grande determinazione per garantire trasparenza, efficienza e una spesa... Adesso però, amico mio, a noi che cazzo ci frega se quello è arrabbiato, se è incazzato o no? Noi vogliamo semplicemente sapere, anche nel più breve tempo possibile, vi siete fregati i soldi? Cioè, con la corruzione? Sì o no? Questo è il punto. Dell'incazzatura di Maroni, ma insomma, chi se ne frega, no? O no? Secondo cosa? No, secondo punto. Perché questi scandali travolgono sempre esponenti e dirigenti della sanità? Che si vabbè, perché ci sono i quattrini. Forse il federalismo che ha dato troppi. Vabbè, ma chi se ne frega? Dai, troppo lungo, non ce ne frega niente. Il federalismo che ha dato potere alle regioni. Ma che ce ne frega? Ma sì, no, perché nella sanità. Vaffanculo, dai. Una cosa bisogna diciamo dire. Subito una parola. Perché? Detto, dai, no, ma perché? Perché nella sanità ci sono i quattrini. Esatto. Solo per quello, dai. Esatto. From now on. Allora, devo dirti la verità, io quelli di destra a Roma che non votano Bertolaso li posso capire, amico mio. Devo dirti la verità, un po' li posso capire. No, li posso capire. Perché, allora, ti faccio sentire due affermazioni che ha fatto il signor Bertolaso. Che per carità è una bravissima persona, sicuramente riuscirà a dimostrare la sua innocenza nei due processi capito, in cui è coinvolto. I Rom, ho capito già, mio. Guarda. Abbiamo parlato ieri sentito. Anche con il signor Salvini. Ma come fai a dire? Sei candidato? Tu lo puoi anche dire, perché se sei candidato col signor Vendola, se sei candidato, ma nemmeno del PD, perché adesso nemmeno uno del PD lo dice. Cioè, se sei candidato con Vendola. Ma non ha detto una cosa. Aspetta, ha detto una cosa anche di buon senso. Ma secondo te, ma infatti, se Bertolaso fosse candidato di Vendola, dei Verdi, non so chi, della sinistra arcobaleno. No, ma in realtà è uno stereotipo il tuo. Rifondazione, eccetera, eccetera. Va benissimo, ma se sei candidato con Salvini. Devi dire lanciafiamme. E Gasparri, no! Sì, ma non dire che i Rom sono vessati, però. Che i Rom sono vittime, sono una categoria vessata e penalizzata. Altrimenti, chi cazzo ti vota a Roma? Userei più diplomazia, più tatto, sarei più cauto, perché io mi metto sempre dalla parte dei più deboli. I Rom sono sicuramente una categoria nel nostro paese che è stata in qualche modo vessata e è stata penalizzata. Ragazzi, ma guarda che è incredibile questa cosa qua, è veramente incredibile. Cioè, ma come si fa? Come si fa? Ma che impreparazione, che mancanza assoluta. Ma no, ma ha detto quel che pensa. Sì, ma lascia perdere il merito. Ognuno la pensa come la pensa. Secondo lui sono una categoria vessata e penalizzata. E vabbè, ognuno dice sui Rom pensa quello che vuole. Per me è una follia pensare una cosa del genere, per te è condivisibile. Io dico semplicemente che è candidato di Salvini. E quindi cosa di Berlusconi. Lanciafiamme. Ma no, per forza lanciafiamme. Questo deve dire. Ma non puoi dire quello per titillare l'elettorato che piace te dovrebbe. Hai ragione. Invece tu. È uno. No, e invece è uno che magari spiazza, che prova anche a far ragionare la gente su questa roba. Non è male che ogni tanto ci non sia prende una un voto, te lo dico io, non prende un voto. Non prende un voto. Dice? Infatti oggi è un po' tornato indietro dicendo no, la chiusura dei campi Rom è l'ultima razio, no? È la fine di un processo, perché ieri Salvini quando ce l'ha detto, mi sono sentito con lui, se l'è un po' inchiappettato, come si dice in romanesco. Poi un'altra frase ti voglio far ascoltare di Bertolaso, quando dice che non ha mai votato Berlusconi. Non ha mai votato Berlusconi. Ma insomma, Bertolaso. Caro Bertolaso, amico mio, ma chi ti deve votare a Roma? Scusa, dici che non hai mai votato Berlusconi e che sei un vecchio democristiano. Dici che i Rom sono una categoria vessata Buono. E penalizzata. Ma io dico, ma la sinistra, ma perché candida Giacchettola? Ma candidassero lui. Senti. È vero che lei non ha mai votato per Berlusconi? Esatto, è vero. E come si definirebbe di lei, di destra, di centro, di sinistra? Guardi, io sono un vecchio democristiano, vecchio da un punto di vista, diciamo, politico. Beh, ragazzi, siamo al top assoluto, Al top totale, top totale. Auguri, tanti, tantissimi auguri. Allora, caro Parenzo, sai che i 5 Stelle a Roma hanno cominciato una serie di candidature. Sì, una serie bellissimo. Di candidature. Un talent show quello lì. Una specie di reality show meraviglioso in cui la gente manda i video, si candida, i primi non so quanti, 30, 35, saranno i candidati poi per un'ulteriore selezione per scegliere il sindaco. Non iniziamo bene, ti dico subito. Innanzitutto c'era un negazionista dell'olocausto. Lo stai dicendo tu, un negazionista dell'olocausto che è stato poi escluso. Uno che aveva detto che l'olocausto non esiste, oggi l'hanno escluso. Ma al di là di questo, ti faccio sentire uno, per esempio. Ti faccio sentire uno che si chiama Alessandro Pirrone. Alessandro Pirrone, vabbè, il quale dice che è laureato in scienze della pace. Della pace. C'è una scienze della pace. Salve a tutti, sono Alessandro Pirrone, risiedo a Roma, ho due figlie, una maggiorenne e tutte e due studentesse. Ho due lauree, una in scienze organizzative e gestionali presso la facoltà di Viterbo e una in scienze per la pace, trasformazione dei conflitti e cooperazione internazionale alla facoltà di Pisa. Un altro che si chiama Pescatori. Pisa si è laureato, giusto? No, Pisa. Carlo Pescatori dice che sono cittadino della terra. Senti, sono cittadino della terra. Ciao a tutti, sono Carlo Pescatori, ho 49 anni. Mi piace definirmi cittadino della terra, che per me significa amare tutte le persone, amare gli animali, amare la natura nella sua interezza, così come amo me stesso. Nella vita quotidiana vuol dire rifiutare la logica dell'usa e getta, usare prodotti naturali, muovermi in bicicletta e con i mezzi pubblici, vuol dire anche aver trasformato la mia auto, seppure la uso pochissimo, a GPL. Beh, è fondamentale, ha trasformato l'auto a GPL, buonissimo questo, eh. È un candidato sindaco ideale. Ho trasformato l'auto in un'auto a GPL, come diverse decine di migliaia di italiani, peraltro. C'è un'altra candidata che si chiama Guerrini, Gemma Guerrini, che ci dà Gemma, non mi ricordo come cazzo si chiama, che ci dà un'informazione fondamentale. Sentiamo. Fondamentale per la vita, per la vita, per il futuro anche di Roma, direi, eh. Mi chiamo Gemma Guerrini, ho 5 gatte, 2 cani, 2 figli e un marito solo, anche se da quasi 50 anni stiamo insieme. Beh, fondamentale questo. Interessante. Interessante questo. Poi c'è anche il giornalista, quello che era alla 7, Ivo May. Signor Ivo May. Conosco benissimo, grandissimo May. May, ma tu lo sai invece, che vuole fare la battaglia, vuole fare la battaglia per la radiazione di Belpietro. Si presenta e vuole la radiazione di Belpietro, il direttore di Grande Libero. May. Grandissimo May. Ma incredibile, dai. Ultimamente mi sono dedicato a due battaglie che reputo sacrosante. La prima, la radiazione di Maurizio Belpietro dall'Ordine dei giornalisti. Basta con persone come lui nell'Ordine a fare questo tipo di lavoro. Non si può pubblicare una prima pagina con scritto bastardi islamici e farla franca. 127.000 persone più mi sono venute dietro in questa battaglia. Signor Ivo May. Conosco benissimo, caro. Non dici niente su ste cazzate, eh. Ho detto grande May. Iniziativa che... Poi c'è un altro che ci comunica che la sua tecnica da pittore è ruggine su tela, un tale calabrese si chiama. Che ruggine? Pittore ruggine su tela. Io sono Piero Calabrese, sarei un pittore, pittore di arte contemporanea. La pittura mi ha dato tantissimo, ho sviluppato una tecnica personale, ruggine su tela. Dalla ruggine, dal ferro ossidato, ho tirato fuori... Beh, sono informazioni fondamentali per il futuro di Roma. Mi verrebbe da dire, no, non lo dico, forse lo dico dopo. Lo dico dopo. Ogni volta che mandate il traffico, un bambino innocente viene circonciso. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta La Zanzara. Parenzo, leggo sui giornali di oggi. Ferma tutto. No, aspetta, fermo. Leggo sui giornali. Natalia mi segnala una notizia importante. Cosa? Comunque dimmi, vai avanti. Dimmi. No, dopo la notizia. Leggo sui giornali di oggi che Roberto Zancan, che è il gioielliere che ha subito diverse rapine, anche quella in cui poi Stacchio sparò, no, il benzinaio e uccise uno dei rapinatori, si è presentato a una fiera con una pistola d'oro da vendere. Cioè ha costruito una pistola, non so che pistola sia, forse una beretta, non so, per vendere questa pistola intarsiata di diamanti. Io lo chiamerei, eh. Pronto? Sì, Zancan, buonasera. Sì, buonasera. Come andiamo? Con chi parlo intanto? Sono Cruciani, ciao. Oh, carissimo Cruciani, vuoi farmi arrabbiare anche stasera? Come amici va? Sono. Come sono amici, va? Capito? Come sono va? Sono amici. Beh, sono certo, amici. Io condivido una cazzata, l'altro invece... C'è qua che viviamo su più e là sempre, porca miseria. Senti, Zancan, so che ti sei presentato lì alla fiera con una pistola tutta d'oro. Beh, oro è oro. Oro. Non è che c'è oro è oro, sì. Ma spiegami una cosa, quanto costa? È un'iniziativa puramente, come dire, sull'onda della dei fatti di cronaca, di pubblicità, dai. È una cosa abbastanza miserevole anche come iniziativa, come campagna pubblicitaria. Quello che pensi te, Cruciani, a me non può fregare. No, questo è Parenzo, veramente. Questo è Parenzo. Sì, Parenzo, sì. Scusa, sì. Perché tu se non altro sei più serio di lui. Ecco, allora, se magari mi lasciate sì, parlare e che posso spiegare la cosa... Può magari... parlare tutto quello che vuole. Lei si è fatto, per carità, anche giustamente dal suo punto di vista, pubblicità con una pistola d'oro... Sull'onda dei fatti di cronaca drammatici ci sono stati negli ultimi mesi. Tutto qua, finito, grazie, chiudiamo la trasmissione, arrivederci, no, a sole 24 ore. Chiudiamo un paio di palle, perché no, tu non puoi asserire, ecco, quello che le cazzate che continui a sparare, perché chiuso, mi lasci parlare, può darci che magari ci capiamo meglio. Se allora, vuoi parlare solo tu, allora a me non sta bene. Allora, pietale morta, pietale morta. Stai zitto un attimo. Allora, questa pistola d'oro, che cos'è? Una beretta, che cos'è? Che 98, leggo qua, io non ci capisco. 98 FS, che è una serie speciale con una tiratura limitata che hanno fatto ancora 10 anni fa. È una pistola normale fatta in lega speciale, rivestita in oro 24 carati. Io cos'è che ho fatto? Ma leggo qua 470 diamanti neri, esatto, possibile? Esatto, cos'è che ho fatto? Ho preso, ho rifatto l'impugnatura praticamente, sì, in oro bianco, e aggiungendo 110 carati di diamanti neri. E quanto costa sto oggetto? 110.000 euro. Ma chi è che se la compra? Ma io non discuto di questo, mi interessa, va benissimo, uno può comprare quel che vuole. Ma perché la pistola d'oro? Cioè, uno si fa pubblicità. Allora, perché è stata fatta? Perché? È stata fatta per una mia rabbia, un mio sfogo, perché con tutto quello che è successo, di come stanno andando le robe in Italia, che qua non è tutelato nessuno a parte i delinquenti. Ma cosa vuol dire? Primo, no, cosa vuol ma dire? Che uno fa una pistola d'oro perché pensa che non sia tutelato in Italia? Ma di che stiamo parlando? Ma sia più sincero. Ma scusa, dica che l'ha fatta perché vuole vendere. Tu capisci tanto cazzo che vuoi te, non lasci mai parlare la gente. Palenzo, ascolta, genio della lampada, ascolta qua. Questa iniziativa è stata fatta per iniziativa, un puro e semplice scopo. Lei vuole vendere, basta, solo questo vuole fare, giustamente anche, peraltro. Quindi lo dica, ma non rompa i coglioni con altre cose pseudo morali. Ma i coglioni li stai rompendo te, imbecille, che non lasci parlare la gente, perché tu sei un imbecille patentato. Ha ragione, però, non lasci parlare, non lasci parlare. Tu fai queste cose qui per vendere, e anche per che cosa? Allora, io l'ho fatto soltanto per uno sfogo, per una rabbia, perché per far capire che non si può più andare avanti, che gli onesti devono pagare le conseguenze di essersi difesi dentro casa sua, perché lo Stato non lo fa. Cioè, tu perché dici noi, una parte di questi soldi, aspetta un attimo, bravissimo, la mettiamo in posizione di gente che non ha la possibilità, tipo come me, di autodifendersi da queste Vabbè, questa però speri di prendere soldi anche tu. Te credo. Io i soldi li prendo con il mio lavoro. Appunto. E non ho bisogno di fare certe azioni, perché ringraziando Dio io sono un buon imprenditore e so come cavarmela. Questa è una cosa che è stata fatta in più. Lei dovrebbe asserire: ho fatto la pistola d'oro per una ragione commerciale, le altre sono tutte stronzate che mi servono per vendere. Allora lei avrebbe la mia stima assoluta. Perché se ti vedo te la smacco nella testa, perché uno così bisognerebbe smaccartela nella testa. Hai capito? Perché sei un imbecille patentato a ragionare così. Però scusa, ti ho appena spiegato. Lo fai in parte per beneficenza, non rompere, Parenzo. Non è che c'è gente solo che pensa. Esatto, ma dillo anche te. Ma c'è anche gente che pensa, non è che pensa solo ai cazzi suoi, c'è anche gente che esatto, tanto ci vuole, mamma mia. Roberto, facendo polemiche sulle disgrazie degli altri, lei fa la pistola d'oro, io posso fare pubblicità, io faccio polemica, tu me lo puoi impedire, capito? Io posso fare quello che voglio, però scusami Zaccani, il Veneto non sei sta roba qua, scusami. E comunque i fatti di cronaca nera li ho subiti io, non li hai mica subiti te, non direbbe che le provassi su certe cose, ma dai, dopo ti calmi anche te, amichetto, dovresti provarle per certe situazioni, certe cose. Quando ti puntano la pistola in bocca o ti arrivano i proiettili a fianco alla testa, vedrai che dopo ragioni in maniera diversa che te. Non c'è dubbio su questo. Chiudi la trasmissione, Roberto. Chiudiamo la trasmissione, basta, non ha più senso andare avanti. Chiudi la trasmissione adesso. Chiudi la trasmissione, falla solo te, Cruciani, lascialo Roberto, fuori dalle balle. Roberto, scusami un attimo, ma al posto del tabaccaio, quello di in provincia di Padova, che è stato condannato a 2 anni e 8 mesi, che cosa avresti fatto? Avresti sparato anche tu? Certo che sì, perché bisognerebbe dire al signor Parenzo che alle 3 di notte, quando ti capita una cosa del genere, che tu non sei mai pronto, si crea dentro di te una miseria devastante che si chiama paura e adrenalina, e solo chi la prova può sapere. I delinquenti da oggi in poi devono essere presi a calci nei coglioni, sbattuti in galera per quello che è la pena che hanno fatto, e devono avere risarcimento danni zero. zero, perché il messaggio che stanno mandando, caro Cruciani, è questo: venite in Italia a delinquere, che siete tutelati e che mai che vi vada avete anche un'assicurazione sulla vita. Questo è il messaggio che sta mandando questo stato. Tu nei confronti di quel tizio che è morto non te ne frega niente quando uno entra in un posto? Assolutamente no, anzi è meglio che muoia qui dei delinquenti lì, perché devono imparare che la gente ne ha piene le balle. Se loro sono cattivi, noi stiamo diventando di più. Qualche delinquente morto serve a fargli rizzare le antenne e dire: occhio che qua non scherzano più. Parenzo? Parenzo ha chiuso la trasmissione, basta, non è impossibile. Il parere di Parenzo a me non me ne frega un paio di palle. Ma è reciproco. Può dire il cazzo che vuole. Lei dovrebbe... non è che il fatto di aver fabbricato una pistola d'oro con diamanti l'autorizza anche a fare il leguleio? Perché altrimenti io potrei fare l'astrofisico nucleare, ascolta, e invece faccio semplicemente una trasmissione radiofonica. Quello che vuoi, Parenzo, sempre coglioni rimani. Allora, non è che lei è un pistola. Scusami David, devi avere rispetto di una persona. Devi chiudere la trasmissione, ma lui non ha rispetto. Devi avere rispetto di persone che hanno subito rapine, Ma non può arrivarci perché lui non l'ha mai provata, deve provarla una cosa del genere. Glielo auguro che gli capiti, così dopo vediamo se ragiona così. Eccolo qua il fabbricante di pistole. Ciao Roberto, ciao. Notte. Tesoro, ho voglia di fare sesso. Sì, vabbè, dai, veloce, perché alle 7:15 inizia la zanzara. Dai, andiamo. Digital Radio Flash. Ciao, sono Max. Ma è vero che la Digital Radio si sente perfettamente anche mentre guida in autostrada? Sì, perché è un sistema nuovo che migliora l'esperienza d'ascolto con una qualità dell'audio estremamente avanzata. E puoi ascoltare la tua radio in Digital Radio già sul 70% della rete autostradale. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. La Zanzara. Tanta stima per la vostra iniziativa per lo sbattezzamento, però mi dovete fare un favore, io voglio essere aiutato anche per il funerale, perché i miei sono dei maledetti cattolici e sicuramente quando muoio mi chiudono in una bara, mi portano in una chiesa e dove c'è un corvaccio che parla di regno dei cieli, altre amenità varie, quindi mi dovete aiutare perché io vorrei essere cremato subito appena morto e le mie ceneri buttate nella lettiera della mia gatta. Vabbè, ma qui siamo all'estremismo però, Parenzo. Mamma mia. Tu dici che sarà colpa mia adesso. Hai no? creato dei mostri come il tuo solito, dai. No, ma non ho creato dei mostri. Questo sì, qua. Dei ma mostri. Perché che ha detto di strano questo qua? Che vuole essere cremato. E dunque dobbiamo aiutarlo. Ma chi se ne frega? Ma ti pare che ci siamo trasformati in una associazione che dà che servizi per sbattezzarsi, uno che si vuole cremare, l'altro che si vuole far buttare nel Tevere, ma fate quello che vuole, ma chi se ne frega? No, ma lo sbattezza. Ma lo sa il presidente Squinzi di queste? Ma io veramente non ma che cosa, scusa? Perché tu ti dissoci dall'iniziativa dello sbattezzamento? No, mi dissocio. Io, a parte che sono di un'altra parrocchia, come ormai sa chiunque, sì, quindi non mi devo non ripetere sempre le stesse cose, però. Che sono parte di un'altra comunità. Vabbè, lo sappiamo, ecco, ti piace, non c'è bisogno. E allora cosa volete da me? Volete sbattezzarmi, fate quello che volete, chi se ne frega? Allora, però noi abbiamo la mini guida allo sbattezzo. La mini guida è stata realizzata dal sottoscritto in collaborazione. Io ancora devo fare questo passo, lo farò nei prossimi giorni con la mia parrocchia, lo dico qua ufficialmente. Mentre questa sera avremo anche più avanti la richiesta ufficiale di sbattezzamento da parte di Oliviero Toscani, cosa abbastanza prevedibile. Però dici: io mi voglio sbattezzare dalla mia chiesa. Non si ricorda bene qual è la sua chiesa in cui si è battezzato, cioè Toscani a Milano, è nato credo alla Mangiagalli a Milano, si vuole sbattezzare, gli daremo una mano. La mini guida, eccola qui. Come si fa oggi a sbattezzarsi? Allora, niente, molto semplice, molto rapido, bisogna collegarsi al sito UAR, scaricare il modulo, poi bisogna compilarlo, allegare la fotocopia della carta d'identità e inviare il tutto con raccomandata alla parrocchia di battesimo. E i tempi quali sono? Sono 15 giorni perché sono previsti dalla legge sulla privacy. e al termine di questi 15 giorni sono costretti a rispondere, sono obbligati a rispondere? Sì, perché altrimenti violano la legge sulla privacy, quindi per legge devono rispondere. Cioè al termine dei 15 giorni devono notificare l'avvenuto sbattezzo? Esatto, devono scrivere lo sbattezzando e se non lo fanno si può presentare ricorso contro la parrocchia di battesimo o il garante della privacy. Addirittura? Sì, esatto. E sinora ha sempre dato ragione allo sbattezzando e ha sempre, diciamo così, dato la colpa, sanzionato la parrocchia che non ha provveduto. E la Chiesa si può opporre? La Chiesa non si può opporre. Mini guida con il signor Carcano dell'UAR, uar.it. Andate, scaricate questo modulo e fatevi avanti. Chi ovviamente avesse bisogno di una mano, caro Parenzo, ci siamo qua noi, in particolare il sottoscritto. Cioè, Mercù, nell'ufficio preposto, Andro Mercù. Ufficio sbattezzo. Sì, ma Mercù è il delegato. Ma è il delegato. Il dirigente del settore, come si dice? È il dirigente del settore. Ma vogliamo ricordare. Sai come nella pubblica amministrazione sono dirigenti per tutto. Ecco, lui è il dirigente della Zanzara, delegato a. Cioè, è unico, c'è solo lui. Però è un dirigente. È il dirigente delegato allo sbattezzo. Allora, mi hanno scritto due signori dalla parrocchia di Laglio. Qualche anno fa arrivò un prete chiacchierato e se ne andò per molestie sessuali o minore. Vorrei sbattezzarmi perché non credo in Dio, non voglio rientrare tra gli utenti di un'azienda che tollera e tiene alle proprie dipendenze dei maiali. Parrocchia di Laglio, vada su un sito, prenda la raccomandata e la mandi se vuole. Beh, ma non è mica obbligatorio, io lo farò. Toscani lo farà, Parenzo ne ha bisogno, essendo di un'altra parrocchia, come sapete, non quella di Laglio, ma quella religiosa, eccetera, eccetera. Altri due signori, Sara e Luca, non dico i cognomi, magari non vogliono farlo, mi dicono dateci una mano anche noi, come dobbiamo fare? Eccoci qui, c'è stato anche un aumento quest'anno degli sbattezzati rispetto all'anno precedente. Andiamo avanti, Parenzo, una grande battaglia laica, come direbbe Pannella? La grande battaglia laica, liberale e libertaria, perché come diceva Don Benedetto Croce, non possiamo non dirci cristiani, per questo diciamo oggi Falun Gong sì, grande satyagraha radicale, digiuno, sciopero in ordine della fame, della sete, del sesso. Dobbiamo scioperare perché il corpo nostro, il testimonianza politica di uno sbattezzo, perché il sesso radicale porta alla dispersione del seme dell'eterologa. Utero in affitto, noi abbiamo detto per primi, noi radicali dicemmo per primi che l'utero era in affitto, non in locazione, ma da dare in affitto. I Falun Gong contro i cinesi lottavano per la libertà e noi diciamo freedom, Tibet libero, freedom, battaglia di oggi su tutti i giornali online, si parla della libertà del Tibet, ma non è vero, non dallo sbattezzo clericale e fascista della Corte Costituzionale all'epoca presieduta, fammi parlare, va bene, grazie. E il CSM che in realtà è la cupola partitocratica. E i figli? Quanti figli ha Pannella? Lei? Che cazzo vuoi sapere? Io ho tre figli sicuri naturali loro, di cui due omosessuali, uno bisessuale. Ma non c'entra la mai. Libertà con Pasolini, noi dicevamo, bene, lo grazie. Scandalo bene, di Pasolini. Grazie. Tocca togliere il microfono, sennò è un casino. Xavier da Verona, vai, 800 24 00 24. Xavier. Buonasera Cruciani. Dimmi. Ciao, ho un messaggio per Parenzo, volevo confrontarmi un attimo con lui. Ecco, io penso che sia un po' un ipocrita, perché mi riferisco all'artigiano che prima parlava della sua arte, del suo lavoro, che ha fatto la pistola in oro dicendo che aveva un messaggio da dare con quell'oggetto che ha prodotto. Perché se al pari suo ci fosse stato qualcuno che magari mandava una campagna pubblicitaria facendo pubblicità, utilizzando omosessuali, messaggi, nel senso... più consoni a Parenzo, a lui consoli. Questo sarebbe andato benissimo, mentre invece un artigiano ha fatto con la sua arte, col suo lavoro, si è fatto pubblicità, un oggetto, dando un messaggio, ma quale, ma perché la pubblicità, perché non l'ha messo pubblicitarie, ma le campagne pubblicitarie, ma perché non l'ha detto anziché ammantare tutto con significati che, ma che cazzo, quello doveva dire: io faccio l'artigiano, devo vendere, ho fatto una pistola d'oro e ho cavalcato episodi di cronaca, fine. Io non avrei fatto nessuna obiezione, ma invece siccome ammanta questa sua operazione, vabbè, come fosse, allora? No, e quindi io, per me, il signor Parenzo, che non sempre trovo sulla mia linea di ragionamento, in questo male. Caso io lo trovo ipocrita. Va ipocrita. Bene, Sandro, provincia di Roma, dai, Sandro. Sandro, dimmi, dimmi. Ecco. Vorrei proporre un esperimento a Parenzo. Qual è? Ha visto che anche il politico in televisione che diceva che bisogna chiamare la polizia e in 3 minuti arriva, no? Sì. Io questa sera vado a casa di Parenzo, sì. Entro dentro, sì. Poi gli faccio chiamare la polizia, lo faccio riattaccare e gli faccio vedere in 3 minuti quante botte gli do. Vabbè, ho capito. Non ho capito il senso di questo esperimento. Non ho capito il senso. Questo per far capire che comunque se entra una persona dentro casa... Cioè, è difficile ragionare con la ma mente. Ma chi è che ha mai obiettato nulla su questo? Non ho capito. Cioè, lei capisce quando uno parla? Allora, no? Secondo te, quando uno becca un ladro dentro casa, che cosa deve fare, Sandro? Non ho capito. Secondo me, se ha paura per la sua famiglia, per sua moglie, per i suoi figli, se l'istinto gli viene di sparare, deve sparare. Secondo me è già previsto. Legittima difesa e basta, senza discussioni. Ma è già previsto, no, è previsto così? Diciamo... No, non è previsto. No, perché ancora avanti con questa storia. Vabbè, al gioielliere mi sembra che non ma non il al 99% dei casi di cui abbiamo parlato anche alla Zanzara, cioè di persone che si sono difese dentro il loro negozio barra casa, non è accaduto nulla. Non sono alcuni neppure stati rinviati a giudizio. È stato semplicemente aperto un procedimento, come prevede la legge, cioè si cerca di capire come la persona è morta, la dinamica dei fatti, tutto qua. Che noia. Vabbè. Non è tutto vabbè. Qua, non è tutto qua. Spesso ancora. Le persone hanno un sacco di problemi, un sacco di guai, gli avvocati da pagare, eccetera, eccetera. Pietro dalla provincia di Roma, dai, Pietro. Pronto? Fatica, dimmi, ragazzi. Dimmi, Pietro, dimmi. Ciao, senti, sono un tassista di Roma, sarò breve e circonciso, come dicono i brei. E quindi anche lei. Vado a Ciampino spesso e non posso non girare la testa entrando a Ciampino Paese, guardare a sinistra prima di entrare al paese e vedere un'ampia, amplissima area dedicata ai Rom, ai quali sono stato dato. Ci stai dicendo che c'è un campo a Roma, a Ciampino, vicino a Ciampino? No, non è un campo, forse sarà un ex campo, però tu devi vedere che case gli hanno fatto con i vialetti, con le cose, con la differenziata. Cioè, voglio dire, cose che io che vivo in un quartiere popolare... Ma non sono informato. A Ciampino cosa c'è? Una specie di cittadina Rom, di cittadella Ciampino, Rom? Cos'è? Hanno costruito delle case per i Rom? Hanno costruito... C'è un'area ristrutturata dedicata, evidentemente ce l'hanno messo di Roma, non so, cazzo ne so io. Non lo so, ma sei tu che mi stai chiamando, mi stai raccontando questa cosa, amico mio. Stai dicendo, hai chiamato tu. Una testimonianza. Sì, ma non è la testimonianza, deve essere un minimo informata. Mi hai chiamato, mi stai dicendo, a Ciampino hanno fatto delle case per i Rom, ma sono case fatte apposta per i Rom? No, cioè... non sono case in mattoni, sono compound ovviamente, non sono case. Sono compound dove però ordinati, puliti, cioè situazioni assolutamente... No, beh, insomma, noi paghiamo per questi Rom, a te non ti sta bene questo? Ma no, ma che non si dica, Bertolaso faccia le sue politiche, quello che vuole, il mio voto lo vedi col cazzo, e comunque sia... però voglio dire, non venisse a dire che sono vessati, perché queste realtà si sono sviluppate anche in altre... No, ma io sono d'accordo con te, non sono vessati per niente. La cosa interessante da capire è che tu, tassista di Roma, che magari tendenzialmente voti a destra, è vero? No. Comunque, no, Bertolaso, per quello... Bertolaso, per non, quello... non ho niente contro i Rom, ma questo no, aspetta, però... chiariamoci... No, ma ho capito, dopo quello che ha detto Bertolaso sui Rom non lo voterai? No, ma io non l'avrei votato a prescindere, perché per me Bertolaso è morto quando ha fatto l'Aquila, quando ha fatto il G8 della Maddalena, che porto clienti sardi che bestemmiano in turco, sapendo che cosa ha fatto Bertolaso, le promesse e le cazzate sparate dall'entourage dell'epoca. Dai, su, non riandiamo dentro. Va bene, Pietro, molto chiaro. Carlo Milano, vai, Carlo. Pronto, Cruciani? Dimmi Carlo. Dimmi. Una volta però mi gasavi di più, adesso sei proprio... Sei una volta ti gasavo di più. Ti gasavo di più. Eri tosto, Cruciani. Ero tosto. Cosa vuoi che faccia? Le capriole? Cosa vuoi che faccia? Che mi spoglio in diretta? Cosa devo fare? Mi devo spogliare in diretta. Ti spiego, il milanese ti spiega. Dimmi, Carlo. State un po' perdendo lo smalto, mi sembrate un po'... Stiamo perdendo lo smalto. Sì, no, con la palla lì, Maccari. Ma lei ha già detto una volta questa cosa qui, Carlo. Non so chi fa Totò, chi fa Maccari. È la seconda volta che dice una cosa del genere, non è la prima. Va a parlare di puttana. parlare di trans, del war, di queste cose qui. Tu si pensa di essere trasgressivi, ma in realtà ormai sei nel solco. La vera trasgressione è la tradizione. Sì. Capito? E dunque? Cioè, tu dovresti dare... No, spiegami questa cosa, è interessante. Questo non è sbagliato. Dovresti dare più spazio alla tradizione. Più spazio alla tradizione, cioè spiegami. Ormai tu dici trans, le cose, le puttane, invece parliamo di cose normali. Tipo? La normalità è la trasgressione. Per esempio, fammi un esempio, è interessante, a Parenzo piace questa cosa. La famiglia normale. Dunque, dovremmo parlare della famiglia normale. La famiglia normale. Dovremmo parlare delle persone che hanno la fede, che hanno la fede, lo so, magari sono argomenti meno accattivanti. No, però... è semplicemente una rottura di coglioni, aspetta un attimo. È una rottura di coglioni, però se tu parli dello sbattezzamento, sì. Lo sbattezzamento è una minchiata galattica che proprio non si può sentire. Parenzo dice che è di un'altra parrocchia, no? Allora Parenzo, scusa la mia ignoranza. Come si chiama il rito in cui a 12 anni, 13 anni si viene introdotto in sinagoga? A dopo. Voglio più zanzara e meno pubblicità. La zanzara. Parenzo, è arrivato il momento di fare coming out. Dai, su, confessa. Ripeti insieme a me. Io sono uno stronzo. Ma guardate, adesso siete veramente cattivi, perché arrivano un sacco di messaggi favorevoli a Parenzo, cioè adesso non... mettono sempre questi qua, David. Oh, mi spaventerei del contrario, guarda. Cazzo, ma Parenzo è bello attivo, ma gli avete messo la cocaina nel pane kosher? Questa non è male. Questa è molto divertente. Vedi, tra tanti stronzi ogni tanto c'è qualcuno che intuisce e ha un guizzo di ironia. Bene, bene, bene, ogni tanto... Ma parliamo della trasmissione più bella del mondo. Chiedimi se sono felice, bisogna trovare anche una sigletta, La trasmissione, non dico più pazza del mondo, perché quella è la zanzara naturalmente, ma la trasmissione da dove esce veramente, veramente di tutto. Con la coppia, pare anche nella vita, di questo mi dispiace un po' perché la Celentano, insomma, ragazzi, stiamo parlando di tanta roba, Celentano Vaira, i cigni fanno una mini ammucchiata, parlano del sesso. I cigni? Fanno una mini ammucchiata, parlano di animali e sesso. Cigni neri e pinguini. Il comportamento omosessuale è stato documentato tra cigni neri australiani selvatici che talvolta formano gruppi di 3 individui. Cioè qui c'è pure una mini mucchiatina. Sì. 2 maschi e una femmina. E vai come sono avanti gli animali. Gli animali sono avanti, capito? In natura esistono animali omosessuali. In natura. Cara Rosita, l'omosessualità esiste? Yes. Esiste. Più di 1500 casi, però qui alcuni articoli ne hanno sintetizzati. No, non casi, scusami. Cioè casi, specie animale. Bravissima, perché è diverso. Non è... Il bonobo. Senti, il bonobo che cosa fa? Questa trasmissione quando va in orario molto protetto, molto protetto. Peggio della zanzara, il bonobo. Senti il bonobo. C'è il famoso mitico bonobo che è stato citato anche nel mio libro, grazie bonobo, a Dio, figurati, gay. Ormai è quasi patrimonio comune, cioè ormai sanno che bonobo, cioè allora come risolve i conflitti il bonobo, Rosita? Facendo sesso, scopando. Cioè questi, quindi maschi, femmine, grandi, piccoli, insomma, vorrei ogni volta che hanno un problema invece di litigare, scopano. Fanno sesso. Ma... Poi da notare l'uso il frasario, l'uso delle parole, lei dice scopa e lui, l'uomo, il signor Vaira, pare anche compagno della signora Celentano, dice fare l'amore. Bello, delicato, sì. Questa cosa mi ha fatto arrapare da morire, questa cosa, sai? Mi ha fatto arrapare da pazzi. Che cosa? La Celentano che dice scopano, il modo in cui dice scopano. Mi tagliate per favore solamente quella parola là. Ragazzi, ma che devo fare? Così è così. Oh. Poi mi sembra che abbiano invitato una tale che si chiama Paola Neglia, che non so chi cazzo è. Scusa, ma chi era? Ah, no, chi era quella che tanto cantava? La la la la la la. Chi era? Ah, no, la signora... Quella è la figlia di coso. Ah, no, era la la la la la. Com'era la canzoncina? Vediamo se il buon porci l'ha pronta. La figlia Ornella Muti, dai. La la la la la. Si chiama Paola Neglia, che non so chi sia, una professoressa, eccetera, un animalista convinta, naturalmente... quando, che fa un collegamento tra il Feng Shiu, poi ce l'hanno tutti questi qua, cioè, perché anche chi è molto, sì, animalista è anche buddista, fa lo yoga, va tutto insieme, tutto un pacchetto comune, tutto un pacchetto intero. Quando tu sei andata a fare la consulenza di Feng Shui in questa casa, è migliorata anche la vita del cane, che magari aveva dei disagi, non si capiva perché. È molto interessante, perché le case dove io ho fatto consulenze, dove ci sono i cani sono i primi a sentire i cambiamenti e a loro non glielo ho raccontata. Certo, non è che il cane ha cognizione di che cos'è il Feng Shui. No, proprio zero. Cioè, se non ho capito male... questa qua è una che fa il Feng Shui nelle case, come cazzo si chiama, il Feng Shui nelle case. Allora, il beneficio che evidentemente va agli esseri umani, secondo questa teoria, si trasmette anche agli animali, capito Parenzo? Mamma mia ragazzi, mamma mia, tanta roba, tanta roba. Sai che secondo me è vero quello che ho detto, cioè quella signora che, per carità, non sto scherzando, ha avuto, pare, una notizia di pochi giorni fa a Napoli, attore annunziato un rapporto sessuale con un animale, è stata ricoverata per un non so quale problema, hanno dovuto operarle l'utero, eccetera. Beh. Siccome ha seguito il mio consiglio, cioè era un animalista talmente convinta che... essendo secondo lei alla stessa stregua, uguali uomo e animale, fa danni sta trasmissione. È andata fino in fondo, capito? Sempre detto, io fa danni sta trasmissione, sempre detto. Ah ragazzi, Maurizio dalla provincia di Bari, dai. Giustamente Davide Romano mi scrive che tradizione è anche il cretino che chiama alla zanzara, perché poco fa c'era un signore che parlava di tradizioni, no? Tradizione è anche il cretino che chiama. No, tradizione ormai quella è una abbastanza tradizione consolidata, insomma. Esatto. Maurizio dalla provincia di Bari, dai. Ciao, buonasera. Buonasera, dimmi. Innanzitutto complimenti per la trasmissione. No, Maurizio, non mi fai i complimenti. Grazie molto. Non ne posso più. Però volevo, io ho chiamato perché ieri ho sentito il dottor Salvini. Dottor Salvini ieri, sì. Sì. Esatto. Sarebbe stato meglio oggi, però era ieri, che dobbiamo fare? No, ma non ci sono problemi. Per quanto riguarda, tagliando la stupidata che ha detto sulla... che voleva fare alto tradimento in confronti dell'Italia, nei confronti dell'ex ministro... Sì, vabbè, allora... Vabbè, però volevo fare una domanda a Parenzo. Parenzo, mi scusi. Mi dica secondo che... lei, sì. Secondo lei, sì. Se lei viene una persona in casa, sì, con una pistola, sì, la minaccia di qualsiasi cosa, lei sì, che fa? È una domanda nuova questa, non abbiamo mai risposto. Sì, effettivamente non è una domanda originale, Maurizio. No, non è una domanda molto originale. Lo faccio accomodare, gli chiedo se vuole un caffè, con calma, gli offro dei pasticcini. Lei in poche parole reagisce come ha fatto la gag Brignano. No, ma non lo so come risco, l'ho detto mille volte, l'ho detto, non ho armi, mi chiamerei, chiamerei la polizia, non lo so, ma non ho polizia, armi, non la ho intenzione che non ammetti di... per venire da lei, come fa? Non ho intenzione, lei ha armi a casa? No, però allora, che cazzo e allora perché rompe le balle a me? Io neanche io ho armi, che farebbe lei, visto che anche lei non ha armi? No, perché lei spiega, io ho subito un furto e purtroppo anche menato. E nonostante questo... Famiglia. Aspetta, è stato menato mi dispiace, subendo un furto. Ma nonostante questo non ha preso il porto d'armi, mi pare, no? No, assolutamente no. E allora cosa rompe a me? Io dico la stessa cosa. E se avesse non è avuto che... le armi, cosa avrebbe fatto? Ma non le ha prese perché non se la sente. L'avrei scaricato tutto il caricatore attorno. Però il fatto... adesso l'ha presa dopo quel furto? Ah? Ha chiesto il porto d'armi dopo quel furto? L'ha chiesto mio papà. L'ha chiesto suo papà. Vabbè, allora io non ho capito. Questa telefonata è per dire cosa? Cioè, vuole sapere da parte. Per dire cosa? Comunque sia che in Italia deve essere comunque sia attivata la legittima difesa. Assolutamente. Obbligatoriamente la legittima difesa. Per forza. Ma sì, ma già esiste la cosa. Secondo me va cancellato l'eccesso di legittima difesa. Cancellato quando si tratta della proprietà privata. No, io sono a favore del tabaccaio, sono a favore del gioielliere. Hanno fatto benissimo. No, ma anche secondo me, Maurizio, cioè, alla grande. Marco dalla provincia di Siena, vai. Marco. No, Parenzo. Dimmi, Marco, dimmi. Allora, ascolta, Parenzo, io faccio 100 km al giorno con la macchina, non trovo mai una pattuglia, faccio strade importanti, né polizia né carabinieri. Io ho un amico che vende il gasolio alle caserme, sa quanti ne scarica? 300 e chiamare la polizia, allora non è... No, Marco, non ti sentiamo. Marco dalla provincia di Reggio Emilia, vai. Ciao. Dimmi. Voglio dirti solo riguardo la campagna per il battesimo che stai facendo. Io non sto facendo nessuna campagna, sto dicendo che aiutiamo le persone a sbattezzarsi, non è che sto allora, dicendo che tutti si devono sbattezzare. Certo. Ho detto allora, che se qualcuno si vuole sbattezzare, gli diamo una mano a capire come, quando e perché, lo faccio anch'io perché anch'io mi voglio sbattezzare. Sì, ma il battesimo è un'informazione che vedo. Il battesimo non è tanto il certificato che si trova nell'archivio della Chiesa. È un sacramento che una volta ricevuto rimane comunque fino alla morte. No, ti quindi sbagli perché, non mi sbaglio. No, perché abbiamo il problema è che voi siete ignoranti in tema di religione, non è un problema perché uno può essere Marco, ignorante. Guarda che ti assicuro. Voi siete ignoranti in tema di uno religione. Si può sbattezzare tranquillamente, rimane, ma il sacramento che c'entra? Il battesimo è un sacramento, non è un certificato, non è una scartoffia. Ho capito, ma allora perché rispondono? Perché rispondono? Una volta ricevuto rimane fino alla morte. Ma perché vai rispondono? Dove vuoi, perché rispondono? Perché rispondono i preti allora dalle parrocchie? Ma perché se vuoi il certificato si può distruggere, ma no, nel il certificato intimo... di sbattezzamento, cioè il certificato per cui non sei più battezzato. Però, ma il sacramento rimane. Il sacramento rimane. Sì, va bene, ma questo ha ragione, è una precisazione religiosa, ha ragione. Ho capito, certo, tu non sei più battezzato, per esempio non ti puoi sposare se sei sbattezzato. Ma non importa, il problema non importa? È che il sacramento rimane. Vabbè, ho rimane. Capito, ma se uno si vuole sbattezzare... Lui dice per la Chiesa rimane, è un atto che fai per te, ma per la Chiesa rimani un cattolico battezzato. Questo ti sta dicendo, ma chi se ne va bene? Vabbè, giusto? D'accordo. Ilaria da Mantova, vai Ilaria. Questo ti sta dicendo. Cruciani, Parenzo, ciao, Ilaria. Ce l'ho pelosa. Beh, ma che c'entra? Scusa. Scusi signora, non ho sentito. Io ho chiamato per questo. Cioè perché ce cosa l'ho pelosa. Cioè per raccontarci che ce l'hai pelosa? Sì, ho il triangolo. Ah, perché ieri parlavamo della... Sono le 19.45. Sì, no, però è interessante. Non capisco come... cosa la spinge a chiamare l'emittente radiofonica del gruppo della Confindustria. No, per comunicarci questa cosa è importante. Ilaria, per comunicarci questa cosa, ma lei è sposata, no, è fidanzata? Ma perché ieri... Sì, io sono... Ma che figura fa fare al suo fidanzato? È fidanzata felicemente. Ma scusi, il suo fidanzato se la sente, dice, mamma mia, Ilaria da Mantova, cosa si è no, andata a dire avvisato, alla radio? L'ha avvisato il fidanzato, dove sarebbe intervenuto. Cioè, lui è orgoglioso, ma ha voluto diffonderlo a 2 milioni di persone perché? A lui piace molto questo, il fatto che tu sei pelosa. Sì, Ilaria. Sì, infatti volevo dire proprio questo, cioè alcune volte gli dico, guarda, io se vuoi me la depilo, e lui mi dice, no, ti prego, quanto lo capisco. Selvaggia. Ma che lo cosa capisco? La spinge a condividere con 2 milioni di ascoltatori, ma no, ma questa perdere. Sua intimità? È ma questo è importante io... questa ma cosa. Ma mi manda i matti, cioè, questa cosa. Me, ma guarda, Parenzo, secondo sì. me, cioè, è dica, importante cara. Che comunque anche sì. il culto della figa Ilaria, di questi sì. anni, sì. Non lo so, cioè, non va bene, non va bene. Ah, tu dici perché... della, il culto, diciamo, della figa. Ha spiazzato pure Cruciani. No, sì, non mi ha spiazzato sì, per queste, niente. Queste Barbie, no? Cioè, ah, visto, ecco, adesso, sì. Il culto adesso... della figa abbiamo, liscia. Abbiamo capito, non è, sì. c'è bisogno di entrare nel merito. No, ma è quello interessante. Mi pare no, che abbiamo capito. È interessante perché comunque al giorno d'oggi le donne... Si depilano tutte, diciamo. Si depilano tutte. Sì, e ma signora, io non entro nel merito di questa cosa. Sì, ma veda signora, io non entro nel merito di questa cosa, che potrei avere le mie opinioni, però quello che io non capisco è cosa spinge la sua testa, e quindi il suo dito, a comporre l'800240024 e a dire queste cose in diretta. È questo che mi ogni volta perché mi... vuole comunicare al mondo, vuole comunicare al mondo che ma non c'è mode... molto con la testa, però non c'è molto no, perché, con la testa, si può dire? Ilaria, rispondi tu, ma per favore. Ma come? Allora, Parenzo, è una cosa completamente femminista. Ho quella capito. Che sto dicendo io, cioè tu non sei d'accordo con me. Ma quanti anni hai, Ilaria, scusami? 34. 34 beh, anni. Suo fidanzato, quanti anni ha il suo fidanzato? 38 anni. Beh, ed siete felici, appassionato, avete una vita normale, è appassionato della va bene, ma ci della cambia tua la Pussy, giornata. Pussy, della Harry tua Pussy. Della tua Harry Pussy. Ma ci cambia la giornata questa testimonianza, non ho capito. A me sì, a me francamente cambia la giornata, sì. Cambia un po' la serata. Cioè mi mette gioia, mi mette carica, mi dà una spinta, cioè sapere che esistono persone come Ilaria che non sono, come dire, fissate su questa cosa della depilazione totale, eccetera, ma che si sentono donne lo stesso, mantenendo, come dire, quasi un atteggiamento di sé. Va bene, ma io non entro del merito. Anche ancestrale, se vogliamo, legato alla tradizione, alle origini, giusto, Ilaria? Ma esatto, pensa che c'è una mia amica che ha comprato proprio quel libro di cui parlavate ieri, sì. e mi ha fatto vedere tutti i tipi di patate che andavano depilate, così, sì. e io sono rimasta sconvolta, io ho detto non me lo sono mai depilata. Mamma mia, io tutte le volte mi devo... Ma qualche volta, proprio se vado al mare, sai, cioè non voglio Che... Non vuoi che strabordi fuori, no? Che strabordi esatto, fuori. Esatto, beh, quello sì. Stai parlando con un tecnico, insomma, con un cultore della materia, per cui so benissimo di cosa si tratta. Cari ragazzi, qua abbiamo un ospite che deve intervenire. Cambia proprio la voce. Manderei più avanti, cioè ti richiamiamo, magari insieme al tuo fidanzato, o no, o non vuoi. Sì, sì, no, va benissimo. Non mi sembra timida la signora. Un'altra volta. No, intorno alle 20:15, più tardi, una mezz'oretta magari se puoi, perché se abbiamo un ospite dobbiamo un po', capito, dobbiamo un po' incastrare su alcuni argomenti. Ti chiamiamo più avanti in serata, anche quando il linguaggio può essere più esplicito, più, no, anche più evidente. Allora, Laura da Padova mi scrive: per piacere ridate il sito da cui scaricare il modulo per lo sbattezzo. Amica mia, va bene tutto, però UAR.it è quella degli agnostici e razionalisti, caro Parenzo. Come poi, conosco benissimo il professor Villella, che era il presidente dell'associazione Atei Agnostici e Razionalisti. Li invitavi a fare grandi battaglie, sì, certo, li invitavi a fare grandi battaglie. 20 anni fa. Con il signor Ruggero, grandi battaglie. 20 anni fa. Ma quello che è attuale 20 anni fa è attuale anche oggi. Non cambia, in Italia non è cambiato niente. No, appunto, nulla, ti dà l'idea. 20 anni fa c'erano i matrimoni gay? No. Oggi ci sono? No. No. E allora? È vero. Touché. Allora, voglio capire dal professore Paolo Becchi. Buonasera, buonasera. Che ritorno pazzesco. Ciao, buonasera a voi due e a tutti gli ascoltatori carissimi. Tutto bene? Beh, non c'è male. A Genova che si dice? Lei è sbattezzato, professore? È sbattezzato? Ma no, veramente me ne sono andato più che sbattezzato. Ah sì, lo so che... No, ma sei battezzato tu, Paolo? Ah sì, sì, io sono battezzato. Sei battezzato, ma sei cattolico, apostolico, romano, credente o no? Io sono un cattolico non praticante, diciamola così. Ah no, dunque non hai nessuna intenzione di sbattezzarti? Ma io sono già battezzato. No, di sbattezzarti. No, no, direi proprio di no. I miei figli non sono battezzati perché mia moglie non è battezzata, non voleva. Dunque ha vinto tua moglie. Sì. No, ma anch'io devo dire la verità. Loro da grandi. Lo sai che anch'io ho fatto vincere mia moglie, Parenzo? Cioè, quando... Veramente? Sì, devo dire la verità. Io non volevo, né la né il battesimo né la comunione. Però poi alla fine ho detto, vabbè, la mia ex moglie ho detto chi se ne frega. Ma è giusto, tradizione, giusto. Hai ceduto anche tu, coniglio, No, ho ceduto, mi sono arreso. Ma perché è importante? Per quieto vivere. Ma non è che ti sei arreso, che hai capito anche tu che è una cosa importante. No, quello no, per quieto vivere. Comunque volevo fare i complimenti al mio amico professor Becchi, col quale siamo scontrati per tanto tempo. Adesso perché va contro il movimento, sei d'accordo con lui? No, perché la settimana scorsa ha scritto domenica un pezzo molto interessante su Il Giornale, diretto da Sallusti, molto bello, sul Movimento 5 Stelle, in cui ha detto una cosa vera che vorrei che qui ripetesse. Quale sarebbe? Ha detto che per la prima volta nella storia politica italiana questo ha detto proprio virgolettato, un'azienda privata, la Casaleggio e Associati, non solo comanda un partito ma è anche proprietaria e ha redatto uno statuto. È la prima volta, ricorda, perché neanche anche Forza Italia, no, ecco, questo l'ha spiegato bene lui. Cioè, che differenza c'è tra Casaleggio e Berlusconi, Becchi? Questo l'ha spiegato bene lui. Beh, uno si occupava di televisioni, l'altro è un passo avanti, si occupa di informatica e di reti, insomma, è molto più attuale, ecco. No, d'accordo, però non fa nessuna differenza, cioè, No, ma lui diceva che Mediaset non scriveva lo statuto di Forza Italia. Berlusconi è stato costretto a cedere le sue proprietà ai figli, esatto. E invece Casaleggio è attualmente, insieme al figlio, proprietario dell'azienda, insieme dal partito, insomma. Vabbè, ma cedere le proprietà ai figli formalità, però, dai, diciamo la verità, l'operazione è uguale, tu stai dicendo, no? Cioè, ma io non voglio fare certi paragoni, sono cose diverse, ma il dato di fatto è che c'è una confusione tra la Casaleggio Associati e il Movimento 5 Stelle. Questo diventerà sempre più evidente dal passo indietro che ha fatto Grillo. Prima o poi si dovrà scoprire il ruolo che ha Casaleggio, perché al momento Casaleggio è così, è una figura opaca, nel senso che dal punto di vista dello statuto del movimento lui non risulta neanche tra i soci fondatori, e quindi non ha nessuna funzione. Io credo che prima o poi qualche giornalista troverà qualche carta segreta. Ecco, giusto? Ma allora tu hai parlato oggi di un notaio, cioè, ma sai qualcosa di più? Cioè, c'è qualche carta segreta in cui in realtà c'è un passaggio di non so che io cosa? Io mi chiedo se questo statuto, quello ufficiale, è stato fatto da un notaio qualche anno fa per presentarsi alle elezioni politiche. Ora è chiaro che il passo indietro di Grillo dovrà essere in qualche modo certificato, quindi prima o poi dovrà esserci, non lo so io, qualche altro documento, cioè comunque dovrà uscire qualche altro documento dove Casaleggio assume una funzione che al momento formalmente non ha. Ma secondo comunque, te guardate, oggi scusami, lasciami dire, sì, le unioni civili noi ce le abbiamo già in Italia, cioè? Quale unione civile massima è stata se non quella tra Grillo e Casaleggio? Questa è la prima unione civile che c'è stata, e l'utero in affitto non so se l'abbiano utilizzato o meno, però insomma l'hanno utilizzato o no? Di Maio in qualche modo c'è, vedremo che cosa succederà. Cioè, ecco. Tu stai dicendo che il prodotto Di Maio è come l'utero in affitto di Grillo e Casaleggio? Beh, è già un po' cresciutello. Però tu stai dicendo che l'unione civile tra Grillo e Casaleggio ha prodotto il figlio Di Maio. Però oggi stai dicendo che Grillo ormai scompare e chi comanda il Movimento 5 Stelle è Casaleggio. Cioè il padrone assoluto sì, è Casaleggio. Vabbè, ma sai, nelle unioni civili c'è sempre quello, come nel caso di mia moglie, no? Che io ho detto alla fine, vabbè, saranno i figli a decidere se battezzarsi, e così in questo momento nell'unione civile, secondo me, è molto forte. Chi è il maschio e la femmina? Ah beh, questo non lo so, bisognerebbe chiederlo a loro. Allora, torniamo tra un attimo con Paolo Becchi, che sostiene che il Movimento 5 Stelle, in sostanza, come l'abbiamo conosciuto, è morto, che comanda Casaleggio. Gli faremo ascoltare quello che ha detto incredibilmente oggi dagli amici di Cusano Campus, la taverna, se ce l'abbiamo, in cui parla di complotto per far vincere i 5 Stelle a Roma. Una cosa incredibile, tra poco. Quando sento nella pubblicità la voce della Bossi Fedrigotti, mi viene voglia di arruolarmi nell'ISIS. La Zanzara. Tu cittadino, se trovi un ladro in casa che ruba, perché se non ruba lo trovi in casa e dici: scusi, lei che faceva? Dice: io vedevo la televisione. Scusi, mi perdoni, se faccio un caffè. Ma se il ladro ruba, cioè che tu lo trovi in fragranza di reato, che lo senti che il ladro è fragrante, che lo tocchi, che è scrocchiarello, allora lì per legge, a livello verbale, gli puoi dire le peggio cose. E se, per legge, e se lui si offende e ti spara 25 colpi, allora tu per legge puoi offendere anche la madre e la sorella. E se lui per legge ti spara la seconda sventagliata, che per legge non può superare i 30 colpi minuto, allora tu puoi prendere la tua pistola a uso difensivo personale, che per legge deve essere denunciata, smontata e riposta in loco sicuro in un armadio a doppia chiusura. Quindi tu al ladro gli dici: ah, mo tocca a me, mo rido io, fra una mezz'ora ritorno. Tu vai giù in cantina, fai la respirazione yoga, perché c'hai le fregole, non ce la fai a aprire la cassaforte, dopo 20 minuti apri la combinazione, prendi la tua pistola, che per legge deve essere sì smontata, ma deve avere la punta rossa, che il ladro deve vedere che la tua è una pistola giocattolo, tutta fosforescente con l'acqua dentro, e in quel caso tu per legge puoi sparare anche un colpo in aria, con la bocca, boom! E lui non ti può neanche denunciare. Pensa a che livello è arrivata la legge, tante volte, no? Enrico Brignano, meraviglioso, sui difetti che Parenzo non vede della legge italiana, sulla legittima difesa. E però parlavamo della signora Taverna. La signora Taverna dice: comunicazione che ufficiale, domani devo andare dal dentista, mi deve fare l'anestesia. Vabbè, avrai la bocca un po' impastata. Che non mi devi, esatto, che non mi devi rompere sì, le mani. La mattina, però, a mezzogiorno. Allora, mi ha sposato, è stato molto gentile il dottore. Ho capito, grazie, dottore. Grazie, signor dentista, che non è capa Kebji. che non è Kabakevci. No, non è Abdalla Kabakevci, che sta a Milano. È dottor Scrascia, che domani mi... Sì, benissimo, dottor Scrascia, dentista di Parenzo. Non andate da dottor Scrascia, perché è un macellaio assoluto. No. Non andate, sei, è un macellaio. È numero uno. Ma è un macellaio, ma sicuramente, che, guarda, ma sicuramente un macellaio. Io per diffamazione. Sicuramente sarà un macellaio. È bravissimo. Tra l'altro si è offerto anche di curarti quell'orribile dente giallo. Vedremo. Comunque, il macellaio di Parenzo, il dottor Scrascia, no, domani... Ma sei... Allora, bravi, ne ho cambiati, è veramente bravo. Domani gli farà una bella anestesia. Guarda, Simone Benprat, se vedeva, guarda che quest'altro... Allora, sono, ma perché io devo sopportare tu gente... che invece di fare la trasmissione leggi i messaggi delle persone? No, perché intanto lavoro, è multitasking. Ma non è multitasking, lavoro. Concentrati un attimo, dai. Sono pronto a portafoglio spalancato, dice Benprat. Sì. Bene. Allora, la signora Taverna ha detto che c'è una specie di complotto per far vincere 5 Stelle, cioè hanno candidato personaggi talmente improbabili di altri partiti che vogliono far rimanere solo il Movimento 5 Stelle a Roma con tutti contro, le grandi teorie della Taverna. Il complottismo al contrario, stavolta il complotto, esatto, è per far vincere i 5 Stelle, cioè per metterla in quel posto ai 5 Stelle. Io, ragazzi, però vi assicuro che tante ne ho sentite, ma che addirittura tutti si coalizzino per far vincere 5 Stelle a Roma e così poi smerdarli, cioè fargli fare una figura barbina perché poi gli fanno mancare i fondi. Questa è la teoria della Taverna, sentiamo. Cioè, la scelta di Bertolaso mi ha lasciato veramente perplessa, tanto quanto quella di Giachetti, che subito ha detto: ah sì, però io rimango deputato, perché sia mai che non divento sindaco, figuratevi che me ne frega di Roma e andare a fare il consigliere, io rimango a fare il deputato. Questi stanno mettendo in campo dei nomi perché non vogliono vincere Roma, questo è chiaro. Dice: gli diamo Roma, non gli diamo più una lira. Dicono: adesso ci mettiamo il 5 Stelle, gli togliamo i fondi, così gli facciamo fare questa... E questi romani lo devono capire fin da ora, hanno fatto i conti senza lotte. Allora, Paolo Becchi, professore di filosofia del diritto Università di Genova, ex 5 Stelle, una volta considerato una specie di guru tra i 5 Stelle, ormai non dico caduto in disgrazia, ma insomma ha rotto i rapporti con il movimento. Paolo, ma questa roba qui è una pazza la Taverna oppure ha ragione? Ma sai, nella follia c'è sempre un fondo di verità, che è questo. Governare Roma è un'impresa per tutti. E sai, con le esperienze che loro hanno fatto in piccoli comuni così negative, a parte Parma, ma dove c'è un dissenso nei confronti del sindaco, esatto, prendersi una responsabilità così grossa, tenendo presente, vabbè, che l'anno prossimo ci saranno le elezioni politiche, se lì fai una brutta figura poi c'è il rischio che... Ma ho capito, ma secondo te veramente qualcuno ha pensato di candidare... No, non sto dicendo questo. Beh, sto dicendo la Taverna che cos'è per te? Una matta, una visionaria? No, sto dicendo che in questa follia ci può essere questo spunto di verità, nel senso che effettivamente per tutti sarà un problema, perché chi fallisce e poi ne pagherà le conseguenze. Però scusami Paolo, tu devi fare su Casaleggio un po' mea culpa, perché tu anni fa, tempo fa, quando eri, come dire, no, sulla cresta dell'onda come ideologo, cosiddetto ideologo dei 5 Stelle, mi ricordo che da noi dicesti anche: beh, Casaleggio, per me è un genio, una persona avanti, eccetera. Ma devi fare mea culpa, dai. Ma non è vero, è un genio. Ma è un genio incredibile, scusami, se tu pensi tutto quello che sta facendo, sì, certo, e noi abbiamo Grillo che si traveste da oggi, prima da testa di leone, poi da testa di lupo, poi insomma abbiamo questi animali qui, e abbiamo, oltre queste teste qui, abbiamo tantissime teste di cazzo, scusami l'espressione se la posso dire, sì, che continuano a pensare che Casaleggio sia un matto. Ma no, il disegno è lucidissimo, è un disegno che è perfetto, nel senso, io quest'anno me la gioco così, prima o poi uscirà questa carta dove sono io il proprietario del movimento, l'anno prossimo si va alle elezioni anticipate e chissà che me la posso giocare con un Renzi. Cioè, non ho capito, vuole diventare presidente del Consiglio, secondo te, Casaleggio? Ma no, assolutamente, lui sarà questa figura ombra come lo è sempre stato. Non è che lui interessa, cioè, mettere lì al sindaco di Roma, lui è indifferente chi starà, se dovesse essere uno dei 5 Stelle, tanto lo dirige lui direttamente da Milano. Ma l'avete vista la foto della Lombardi sul blog? Ma la foto della Lombardi sul blog sembra uscita dai programmi televisivi di Kim Il-sung in Nord Corea, cioè è lì messo, sì, è un manichino, è uguale, identico, guardatela soltanto e vi trovate paura. è chiaro che quello lì è un manichino diretto dalla Casaleggio Associati. Cioè tu mi stai dicendo che la Casaleggio Associati, diciamo la verità. Noi stiamo passando dalla democrazia diretta, stiamo creando una nuova forma di democrazia che non esiste in nessuna parte del mondo, la democrazia etero diretta, etero in tutti i sensi, etero diretta. Cioè tu stai parlando della Casaleggio Associati che ormai decide ogni votazione, dunque anche queste cose di Roma sono inutili secondo te, queste specie di parlamento? Ma è ovvio, no? È soltanto una grande vicina farsa. Guarda, certo, dove volevano far vincere il candidato a Bologna, il candidato è stato scelto da Casaleggio in persona, messo lì con una lista bloccata, a chi si lamentava perché le cose non erano in regola gli ha detto dov'è il problema, li ha espulsi tutti, sono stati eliminati tutti, ha detto non esiste. E le votazioni sono finte? Le votazioni online? Ma quali? Ma non l'hanno neanche fatta a Bologna. No, ma quando la faranno a Roma? Saranno finte? Non ho capito. Ma io non lo so che siano finte o vere, ad ogni caso una società che li controlla le votazioni mi pare le abbiano fatte una volta sola, ma è del tutto indifferente chi possa vincere, perché tanto sì, certo, Casaleggio sta puntando su Torino e su Bologna, e lo si vede molto bene, dove aveva bisogno di persone sicure e fisse per cercare di farcela, le ha messe lì imposte senza nessuna lezione. Ma tu stai parlando di Casaleggio, peggio di che ne so, come, a chi lo paragoneresti, signor Casaleggio? Ma è una persona geniale, autoreferenziale, che è convinta ormai di farcela. Pericolosa, è un personaggio pericoloso a questo punto. Questo lo dovremo vedere. No, però arrivi alla conclusione. Hai detto, è uno che fa pulizia etnica in pratica, o no? All'interno del movimento, il movimento che esisteva nel 2013 è stato sostituito da un altro movimento. Questa chiama la sostituzione, pulizia etnica, chiamala come vuoi. Per me era già così. Cioè, tu stai dicendo siamo a livello di Nord Corea. Quasi direi. Cioè, tra Casaleggio e Kim Jong-un, quel tizio là con un po' ciccione, no? Amico di Razzi, con la Grecia, che differenza c'è secondo te? Al momento, è molto difficile dal punto di vista democratico, ripeto, lì è una parvenza, non lo so che ci sia, qui in ogni caso la democrazia sarà etero diretta. Cioè è peggio della Corea del Nord, stai dicendo, almeno, o no? Non lo so, io lì non ho la possibilità di sperimentare la cosa, sto dicendo che effettivamente si va in una direzione dove il sindaco di Roma sarà diretto da Milano e il futuro presidente del Consiglio dalla Casaleggio Associati, se questo che voglia. Ora uno mi potrebbe dire, con Berlusconi, un giornalista di Repubblica mi ha detto, ma è normalissimo professore, il suo articolo non è interessante, perché è chiaro che è così, già dai tempi di Berlinguer succedeva così. Io sono rimasto lì, cosa c'entra Berlinguer? Non riusciva a capire il collegamento, secondo lui Berlinguer e Casaleggio sarebbero uguali, ma io sono rimasto un po' perplesso, ho detto, ma guardi, io ogni tanto un cicchettino me lo faccio, ma qui ho l'impressione che siamo passati alle droghe pesanti. Poi ho troncato lì la conversazione perché mi sembrava follia. Va bene, ciao Paolo, ciao. Buona serata. E com'è bello viaggiare sentendo la zanzara. La zanzara. Lo sai cos'è che mi sta sui coglioni, Parenzo? Quei personaggi, tipo quella indipendentista dell'austriaca là, del Nord del Tirolo là, no? Eva Klotz, che hanno per anni sputato sull'Italia, considerandoci inferiori, eccetera, eccetera, e poi hanno usufruito di tutti i benefit dell'Italia stessa. Cioè questa ha preso quasi 1 milione di euro di pensione, perché se la sono fatta dare alcuni tutta intera, con privilegi spaventosi, eccetera, eccetera, lasciamo perdere. Dopo aver gettato merda sull'Italia, prendono 1 milione di euro di buonuscita, chiamiamola così, di pensione anticipata, dalle stesse persone che lei non sopporta e che probabilmente odia, la signora Eva Klotz. Gli andrebbero congelati tutti, anzi no, chiesti. Ma perché non va a vivere in Austria e rinuncia a questo privilegio, che è la pensione anticipata a 1 milione di euro? È vero, ha fatto la parlamentare, è stata al consiglio regionale, tutti i privilegi assurdi che hanno fatto maturare il vitalizio. Ma è il vitalizio italiano, capito? Dell'Italia che ti fa schifo, cara Klotz, capito? Dunque rinuncia. Donato Varese, se non sbaglio è Donato, eh? Donato. Pronto? Ciao Donato. Pronto, ciao a tutti, ciao soprattutto a te che sei. Io ho letto qui un articolino su Vendola. Sì, Vendola. Ah, beh, sì, c'è questa notizia, Parenzo, che Vendola è andato in America, pare sì. Per avere un figlio. Cioè per avere con la Parenzo, con l'utero in affitto, con la maternità surrogata, un figlio insieme al suo compagno. Non si capisce bene di chi è, diciamo, il seme, chi lo mette, lui, il compagno? Non mi pare così determinante. Beh, no, è determinante, personaggio pubblico. Vabbè, comunque, Donato, che vuoi dire su questo? Voglio dire, Vendola, sai che è una delle poche donne finte più pericolose al mondo, no? È una delle poche, scusa? È una delle poche donne finte più pericolose al mondo. Più pericolose. Bisognerebbe preoccuparsi anche se non esistesse. Adesso questa merda bisognerebbe andarla a prendere, no? A bastonate. No, dai. Io forse non la vedo un po' come te. Io non credo che sia... Tutti noi fra 10 anni, no, noi fra 10 anni ci troveremo, troveremo un mondo più povero, milioni di donne molto povere che si metteranno in fila come l'ufficio di collocamento per pestare il loro ventre ai zozzi della terra. Perché questo accadrà, mettetelo per iscritto. Cioè, che cosa accadrà secondo te? La profezia di Tutankhamon. Fra soli 10 anni, grazie anche a quel, non lo so, a partire da accadrà che ci saranno molte più povertà, perché le povertà ormai è tutto programmato, implementato, in quanto le povertà non esistono, le stanno creando, perché non ci sono, su questa terra non sono mai esistiti tanti soldi come adesso, ma le hanno messe da parte, benissimo. Ma noi fra 10 anni ci saranno molte donne molto più povere, che sanno che ci sono questi ricchioni maledetti, questi sporchi luridi, che quello che hanno conquistato non l'hanno conquistato negli ultimi 7000 anni, quando si inculavano tra di loro, si mangiavano, si spalmavano la sborra sul pane, che schifo, no, ma lei è veramente un idiota. Ma sei una persona schifosa, ma che schifo, questo qui, un povero, che schifo di cosa disse, che succedeva nel passato, non ho capito bene, che noi fra dieci anni, mettetelo per iscritto, purtroppo io non ho una voce ufficiale, perché se avessero una voce ufficiale d'Italia perché ci sono 20, no, non dico 20, ma 12 milioni di persone che vogliono ascoltarmi. 12 Quante? Milioni. 12 milioni. La trasmissione 12 ne fa 2 milioni. Milioni, lui ne trova 12 milioni. Va cioè, bene. Secondo te tu hai questa merda che ha questo scrodo volante. 12 ci sono 12 milioni. Tu secondo te tu hai 12 che la pensano come me. Vorrei gridare al mondo. 12 milioni di italiani che vogliono, e io no, una finestrella, e peraltro io non sono nemmeno un giornalista pennivendolo schifoso che c'è lì a fianco, io sono un musicista che scrivo cose abbastanza. Un musicista? Sono musicista, abbiamo il Ludwig van Beethoven, il Mozart da Varese, un musicista abbiamo un povero minchione psicopatico, sei tu altro che un musicista, fermati un attimo, Donato, fermati un attimo, è un servitore del potere, è un servitore, ecco, è partito, bisogna ce l'hai fatta, è partito, un atomo, tanti atomi che vuole distruggere l'Italia. Comunque io dicevo, scusa, tu hai 12 milioni di potenziali elettori, 12 milioni che li faccio, io ho 12 milioni di italiani che vogliono sentire Donato da Varese. 12 milioni. Aspetta un attimo che c'è il traffico, però c'è il traffico, torniamo subito. Donato, tu mandi voglio traffico. Capire sta cosa di Vendola. È arrivata comunicazione del vice direttore della rete Sebastiano Marisoni, che comunica. Dimmi. Ciao, qui di seguito il comunicato di sintesi sui dati diffusi oggi, no, complessivamente questa, molto positivi, l'Istituto Luce, sia dai, sui programmi che traffico, sui GR, traffico, che sulla domenica. Traffico, zittito, traffico. Fermi tutti, traffico. La Zanzara. Allora ragazzi, alle 20:20 c'è Donato da Varese che è incazzato, è partito dalla vicenda Vendola, poi ha detto che ci sono 12 milioni di suoi potenziali 12 milioni, certo. Potenziali elettori. È per difetto ovviamente, non per eccesso. Donato, no, io anche non ho... per eccesso, anche per eccesso, digli sì, questo cesso 12 che milioni, anche anche 12 per eccesso. Milioni. Per eccesso, il cesso che ho a fianco. È un bagno turco questo. Però, qui. Donato, ha parlato il bagno turco. voglio dire una cosa, ma Vendola, torniamo a Vendola senza andare al passato, eccetera. Ti fa schifo questa cosa di Vendola? Vendola. Vendola. Vendola. Vendola. Io di Vendola ho scritto tante cose. Vendola è un essere repellente, uno schifoso. Ma perché? Ma come si può andare? Ma come si può andare? Dove cazzo andate in Canada con i soldi miei? No, con anche con i soldi miei. Ma... andare a imbottire un ventre di una povera disgraziata che si. Allora, chi dà un figlio a un porco come Vendola? Vai, una donna che dà un. Questo è pazzo. Porco. È un porco, già quello che ha fatto. Perché è un porco? Perché è andato in pensione? Il bolscevico se n'è andato in pensione 4 anni prima. Non ma mai quello lavorato. Che c'entra, però? Non ha mai lavorato! Lavorare vuol dire far cadere il sudore alla fronte e essere italiani e amare gli italiani, poveri italiani. Che cazzo sta facendo sto bolscevico? Ma è un bolscevico, è uno. Non è nessuno, Vendola è nessuno. Vendola è un porco immondo, schifoso, amico degli islamici. E Vendola dovrebbe sapere che gli islamici se lo beccano, gli tagliano l'uccello, glielo mettono in bocca, lo impiccano e gli tagliano mamma le mani. Che schifo. Allora, quel porco, anche ma io non pensavo. Questo è anche possibile, però. In testa queste cose, come lui in Italia, abbiamo un mare di porci. Di porci. Che vogliono fare sti porci? Non io non ho mai pensato potesse esistere una persona simile. Di a quel porco di Vendola. No, io non ho mai pensato che persone così potessero esistere in Italia. Quel porco di Vendola. Ma io devo dire, quello fa quello che vuole. Paese araba, chiedo una donna araba. Ma chiudilo, che pazzo, dai. Ma io non ho capito, ma tu ti opponi a questa cosa qua, oltre al fatto che Vendola è gay, a te non piacciono i gay evidentemente? No, io ho detto che i gay possono fare quel cazzo che vogliono, però c'è una barriera che non devono superare, come nemmeno io, come io non posso fottermi una gallina. Tu hai altri problemi, guarda, nella testa. Fotte, ma quelli fanno fidati ancora peggio, quelli vivono nella merda la mattina e la sera. Fidati di zio. Vendola bisogna prendere a bastonate, cioè, secondo te non bisogna dire, wow, un uomo di merda, che cazzo stai facendo con questi soldi nostri che hai rubato alla regione? Ma di cosa l'ha rubato? Non l'ha rubato. Ma guarda che questo prende una querela per diffamazione, ma che gli trovano via quelle poche cose che ma ha. Ma tu lo sai che non aspetto che questo. Lui aspetta di essere guardato un povero malato di testa. Ovviamente io 12 milioni di italiani come mi vengono a liberare. Ma dove li trova questi 12 milioni di italiani? Merda. Ma posso sapere il calcolo come è stato fatto? Adesso lasciamo perdere tutto quello che ha detto. I 12 milioni come saltano fuori, amico mio? 12 milioni. Te li butto in faccia uno per volta. No, effettivamente, il calcolo come è stato fatto è una cosa abbastanza curiosa, no? È stato fatto perché su 10 persone, ovunque vada, su 10 persone, 12 milioni su 60 milioni di italiani. Mi spieghi il calcolo come viene fatto? Allora, sto parlando di 12 milioni di italiani che vivono nella povertà, che gente come te le ha portate alla morte, perché no, finché tu fai... No, ma il calcolo, voglio sapere, il calcolo, come hai fatto il calcolo? A un povero disgraziato che ti vengono in ladri a rubare, il calcolo, in casa a rubare, il calcolo, e dicendo che quello commette un reato, tu sei un disonesto, perché se vai in Romania... Se gli italiani andassero in Romania a fare quello che stanno facendo qui, quelli là non vengono nemmeno qui vivi. Ma tu che problemi di infanzia hai avuto, però, in generale? Di merda! Dillo! I rumeni hanno ucciso più di 6.000 italiani. Posso dirti che il caso sia... Rumeni, adesso non me ne vogliono gli albanesi, perché adesso non sto facendo tutto albanesi. Nel buon fascio. Sta di fatto. Questo sta si di mette fatto nei guai, te lo dico io. Non dichiarano dammi quello retta, che sta accadendo, fratello, in Italia. Che sta accadendo? Questo è un far west al contrario, mentre si una volta stiamo ammazzando per ora. Qua ci si ammazza per poco e muoiono italiani ogni giorno. Io ho nel cuore tutti gli italiani ai quali è stato impedito di vivere perché quel figlio di puttana di Prodi, D'Alema, Prodi, ancora quella Prodi. La troia della conina di Prodi, pazzo, ma mandalo, ma che c'entra? C'entra perché la Bonino è una basta, più schifosi di questo. Dì a Pannella di non andare e dì a Pannella di non qualche botta. Ma questo si prenderà, guarda, gli tolgo, si sente male. Ma chi si sente male? È morto. Non preoccuparsi, sono dei banditi, degli stupratori. 12 milioni. Ma tu pensa domani quando qualcuno ti bussa a casa la polizia, dai. Non so, delle fasi di... Ma non gli fai un favore? Ciao Donato, ciao Donato, calmati però, ciao. Ragazzi, è tosta qua. Ma non si può. Ah, ragazzi, allora continua il nostro viaggio nella Sicilia profonda, se non sbaglio, nella pure Sicilia mia mamma profonda. Mi ha scritto, dai, vabbè, ho capito, poveretto qua. Si è sentito male in diretta, ha sbroccato in diretta. Continua il nostro viaggio a Marianopoli, questa volta Caltanissetta, sì. Caro Parenzo, Marianopoli, Caltanissetta. Beh, insomma, da questo grande viaggio nella cultura italiana, sì. Nelle famiglie italiane. Come è una serie di viaggi in Italia, come quello che praticamente ha fatto il nostro, sì. Il nostro direttore. Sì, viaggio, il libro, no? E chi è che lo fece anche? Chi è che lo fece anche? L'hanno fatto in due. In no, Italia. Ma chi è che lo fece prima, Goethe, una volta? Goethe e Napoletano. Noi, a noi piace più quello di Napoletano. Allora, grande viaggio a Marianopoli con il nostro sondaggista dell'Associazione Italiana dei Sondaggi, AIDS. Alla ricerca della parola perduta eterosessuale. Pronto? Sì, buonasera, con l'Associazione Italiana dei Sondaggi, AIDS. Mi dedica un minuto, signora? Cosa vuole? Lei, signora, cosa ne pensa degli eterosessuali? Che cazzo faccio gli eterosessuali? Pronto? Buonasera, qua l'Associazione Italiana dei Sondaggi, AIDS. E che vuole lei? Lei cosa pensa degli eterosessuali? Sente, che queste cose non mi interessano a me. Dica. Lei cosa ne pensa degli eterosessuali? Per me non è giusto. Cioè, non è d'accordo con no. I matrimoni tra gli eterosessuali? No. Se lei vedesse due eterosessuali che si baciano fra di loro davanti a lei, come reagisce? Faccio finta di non riguardare, perché già lo so. Quindi le fanno schifo? Per me sì. La fanno anche vomitare? È normale. Cioè, è normale vomitare quando si vede due eterosessuali che si baciano? Ma a me ci vedevo vomitare, mi giuro da una parte. Lei è favorevole alla stepchild adoption? Alla? Stepchild adoption? No, non me ne parla perché per me non sono d'accordo. Pronto? Lei, signora, come definisce gli eterosessuali? Io dico che è una malattia, va, poverino, sono così. Quindi lei dice che un eterosessuale è malato, diciamo, dalla nascita? Penso di sì. Quindi le fanno un po' impressione gli eterosessuali? Beh, mi scusi, ma qua io di questo paese non ho visto, non so come l'ho visto solo in televisione, perciò no. Ah, nel suo paese non ci sono eterosessuali? No, se ci sono non le conosco, va. Ma se un giorno dovesse scoprire che suo figlio è eterosessuale, okay. Lei come crede reagirebbe? È un dolore forte che c'ho, È un dolore forte che ho, un dolore forte. Caro Parenzo, non è facile distinguere tra eterosessuale e omosessuale. No, ma perché la gente non si è accorta, forse non capisce. No, uno dice eterosessuale. Ma non ascolta, allora hanno capito omosessuale. No, ma questo per farti capire evidente. Che bisogna utilizzare la parola froci. Vuoi scommettere che se uno dice froci? Beh sì, è chiaro. Tutto questo politicamente corretto porta ad errori madornali. Stiamo testimoniando ormai da diversi giorni che utilizzare la parola eterosessuale provoca dei fraintendimenti pazzeschi. Poi viene fuori la verità, viene fuori la realtà, no? Ilaria? Sì. Amica Luciani. Mia, passami il tuo fidanzato un attimo. No, è che non c'è. Ma vabbè, allora è tutto finito, dai, su. Vabbè, dai, su. No, ma te l'avevo detto prima, ma non hai sentito. Cosa? Che non c'era. Ah, non c'era? No. Non c'è il fidanzato. Se vuoi ti faccio richiamare, però. No, volevo capire da lui come aveva preso questa tua dichiarazione, Urbi e Torbi, questa sera anche con Parenzo. Parenzo, che era stupito di questa tua dichiarazione? No, su questo dire tuo... alla radio questa intimità, queste cose qui, ce la trovo una cosa anche brutta. Ma non è un'intimità, è una lotta, Parenzo, è una lotta contro le passere depilate. No, io capisco lotta tutte contro le battaglie passere politiche. Depilate. Va bene, ma la lotta contro le passere depilate. Ma tu dici, Parenzo, se uno sa vuole depilare si depila, chi se ne frega, perché uno deve fare la battaglia contro le passere depilate, giusto Ilaria? Beh, deve fare la lotta perché comunque se adesso non ti depili ci sono tutte le donne che dicono oddio, ma dai, non ti depili, ma dai, ma per piacere, ma devi depilare. Ma non è una cosa sporca, dicono, cioè non ti rimane qualcosa agganciato, schifezze, insetti. Mamma mia, anche tu però, ma che cosa? Ma, cioè, dicono, ma io mi lavo bene. Tu ti lavi bene, la coltivi senti, bene. Io non so, ma sta tu, signorina, ma quando la madre sentirà sta telefonata, ma che cosa penserà? Ma mia madre non ascolta Radio 24. Ma lo dice lei, ma lo sbagliato. Ma non è così, ma io voglio adesso, non voglio ma imbarazzarla. Ma hai mai provato a depilarti lì sotto? Ma io posso aver fatto cose che a lei... Beh, l'uomo è diverso però. L'uomo. Io posso aver fatto cose, veda signora. Guarda che è tremendo depilarsi lì. Signora Ilaria da Mantova. Quando ti ricrescono, ti fa prudito tutto, ti prude tutto. Capisco tutto, capisco tutto. Faccio delle cose che lei neanche si immagina. Però è una... Beh, oddio, ma non è vengo, è ma una non specie vengo in via a di dirlo estinzione. Scusa, però, a 2 milioni di persone, dobbiamo, signora dobbiamo, mia, dobbiamo questo. Preservare Ilaria, cioè dobbiamo conservare Ilaria perché è una specie in via di estinzione. Questa è la realtà. A 35 anni, mi sembra, quello che è. Non è ha nessun senso del pudore. Vabbè, quello è importante. Ed è importante anche il fatto che dica chiaro e tondo, ragazze, non siete, mi pare no, non siete avanti, non siete moderne, non siete contemporanee se vi depilate. Io mi sento contemporanea, mi sento moderna come voi, giusto Ilaria, ti traduco così. Ma esatto. Anche cioè... se ho il bosco, eppure molto folto se non sbaglio, o no? Ma adesso molto folto, c'è chi sta peggio di me, oddio. Vabbè, io sono diciamo abbastanza media, ecco. C'ho un bel boschetto, un bel triangolino selvaggio. Ma io non capisco. Ti abbraccio fortissimo, mia. Devo dare la linea a bordo. Ciao Ilaria, però passami il tuo fidanzato la prossima volta. Ciao tesoro, ciao, ciao. A me la zanzara non mi piace, mi eccita. La zanzara. Luciani, io credo solo a Satana. Mefisto, che devo fare? Aiutami tu. Però il partito di Donato da Varese, caro Parenzo, non sarà di 12 milioni, però è piuttosto largo il partito di Donato, eh? Piuttosto per carità, ampio, per piuttosto carità. Ampio. È una pulce con la tosse, però va bene, una pulce con la tosse, ma niente di più. Allora, dove andiamo? Gino da Pescara, vai Gino! Ciao, riguardo al battesimo, è un abuso perpetrato dalla Chiesa Cattolica nei confronti, approfittando dell'ignoranza della gente. Sa perché? Perché la Chiesa... Perché tutta sì, ma non è grave, non è che un bambino rimane segnato a vita, No, ragazzi, no, scherziamo, dai, su. Se vuoi ti dico dove è l'abuso. Tutta la religione si fonda sul libero arbitrio, sulla libera scelta. Lì il bambino non sceglie, c'è un altro che sceglie per lui. Invece, lì ci sta il tutto il nocciolo della questione. Sì, vabbè, ma che il bambino non abbia libertà di scelta non c'è dubbio. Questo mi pare abbastanza... Sì, ma infatti, crede... infatti io sono contrario, però non sono atti che segnano per sempre la vita. Poi capisco anche... Crede... Sì, ma per chi crede, io non credo, per chi crede quella è una cosa fondamentale, perché se uno sceglie, nella scelta c'è sia la virtù che la colpa, c'è il bene e il male, capito? È la scelta che dà valore alla cosa, capito? Quando tu scegli, allora dai valore, cioè scegli di fare il patriota, ha un valore, capito? Scegli di fare il vigliacco, capisci che voglio dire? Quindi è proprio l'ignoranza dell'essere tutta lì. Non c'è la scelta dell'interessato e questo è fondamentale. Sì, no, ma anche secondo me è fondamentale. Detto questo, però, non sono scelte che segnano poi per sempre la tua vita, eh? Cioè, non sono cose... No, comunque è un abuso, ti ripeto, per chi crede, importante, per chi crede. Io non credo, posso andare nel prosaico? No, no, sì, puoi andare dove vuoi. Fammi una cosa, dimmi. D'accordo con te. Sulla Celentano sono d'accordissimo, ho avuto la stessa sensazione. Cioè? È arrapante quando pronuncia quella frasetta lì. Sì, sì, sì. Vabbè, Gabriele, poi... ciao, Gabriele. Sempre Pescara, vai, Gabriele. Gabriele? Buonasera. Dimmi, Gabriele, dimmi. Sì. Ah, buonasera. Vai, dimmi, forza. Allora, innanzitutto vergognatevi per la trasmissione. Oh, bene, che vergognatevi per la trasmissione, eccezionale. Sì, no, ma questo è giusto. Sì, oh, beh, giusto, cioè, dobbiamo tutti vergognare, sì, sempre, sì, sempre sì. Vergognare. Sempre. Devo dire che sei una persona intelligente, però in realtà sei il megafono della tua serale manica di sparacazzi. Sì, no, ma non ho capito bene, però, Gabriele, innanzitutto da dove chiami? Perché mi sembra che sei in una specie di antro nascosto, in una specie di caverna. Dove sei? Aspetta, forse... No, se vuoi insultarci, almeno fallo bene, dai. Ho tolto il viva voce, così il viva voce, allora, aveva il viva voce, Gabriele. Il viva voce aveva. Ti dicevo che tu sei... Sì. Il megafono di una manica di sparacazzi, di questa serale manica, sì, di personaggi che sparano delle cazzate inaudite, sì, a cui tu fai da cassa da risonanza. Sì, bene, bravo, hai fatto la tua analisi di fondo, hai fatto la tua analisi. Parenzo è un bel personaggio, perché sì, Parenzo, aia, come si direbbe in Abruzzo, sì, sì, per la coccia per sparte le orecchie, cioè sì, alla testa per dividersi, sì, per dividersi le orecchie. Ma lei dov'era quando Gesù Cristo dava i cervelli, scusi? Quel giorno lì, quando come Gesù è? Ha dato... Quando Gesù Cristo ha distribuito il cervello, l'intelligenza, lei dov'era? Chiuso in cantina? Dove si trovava? Ah no, guarda, mi hanno messo in un reparto all'Atere perché me l'avevano già dato. Ah, beh, senza grande efficacia però, mi pare. Non ho dovuto neanche fare la fila. Perché il cervello... Ma hanno messo il cervello di un animale, di una gallina, le hanno messo quel giorno. Hanno sbagliato. Sbagliato. Abbiamo dato questa ha detto una cosa a favore. A qualcuno l'hanno dato, a qualche altro come lei, Parenzo, purtroppo certo, non gliel'hanno dato. Io la capisco che lei si ponga il problema dei cervelli. Certo. Comunque poi volevo dire un'altra cosina. Sì, dimmi, Gabriele. Cioè questa trasmissione andrebbe proprio perseguita per reati ambientali. Sì. Ambientali? Perché voi buttate tanta di quella monnezza nell'etere che tra un po' le frequenze radio non potranno più trasmettere. Ma questa è una bella immagine. Si sentiranno solo croci, cazzi, peli di figa, battesimi buttati qua e là come se fossero noccioline, cioè una roba proprio. E tu perché sei stato all'ascolto per tutto questo tempo e hai soprattutto chiamato per dire queste cose? Bravo, perché ogni tanto va anche a me di fare lo sparagazzo. No, ma perché sei drogato anche tu? Perché sei drogato? Perché non aspetti? Perché non vedi l'ora di sentire qualcosa che ti fa divertire, che ti fa andare ai matti, qualcosa che ti fa arrabbiare, oppure un matto su cui ridere, oppure qualcosa che ti fa scompisciare, oppure qualcosa che ti fa ammattire? Aspetta. Oppure perché non c'hai più, soprattutto perché non c'hai niente da sentire spesso. No, guarda, mentre torno a casa la sera vi becco per strada. Però ultimamente rompete proprio i coglioni perché arrivate a un livello proprio veramente infimo, capito? Una volta eravate più burleschi, più adesso proprio godete della spazzatura. Cioè più spazzatura vi propinano e più voi godete, a che livello odore, proprio che odore è una trasmissione di scarica è diventata. Che odore. No, ma adesso ho capito, il signore è il classico esempio di fuga di cervelli, cioè nel senso gliel'hanno dato, ma il cervello se n'è andato a un certo punto. L'equivoco l'ho chiarito. Cioè gli hanno dato il cervello, però il cervello a un certo punto si è reso conto, dove cazzo sono? Via, aspetta che vado, tanto via. Se n'è andato. Allora ragazzi, Giorgio Montanini e lo sbattezzo, eccolo qui. Mi sono sbattezzato. Voi direte, come si fa a rompere legami col Padre Eterno? Come si farà? Un rapporto millenario tra uomo e Dio, scarichi un foglio da internet. La cosa più bella del mondo. Beh, effettivamente questo è vero, no? Un legame millenario, un legame straordinario con Dio, eccetera. Come si fa a romperlo? Vai sul sito dell'UAR, come abbiamo detto oggi, scarichi un foglio da internet e via, mandi alla tua parrocchia. Mandi una raccomandata con ricevuta di ritorno al parroco della tua parrocchia. Nella raccomandata specifichi la motivazione. Voglio essere cancellato dalla lista dei battezzati. Che vuol dire esco dalla Chiesa Cattolica. Cazziamari. Perché ti arriva dentro casa il vertice ecclesiastico. Vengono a casa a convincerti. È venuto a casa mia, io abito in provincia, fermo. È vero, sono venuti il prete che mi aveva cresciuto, il vescovo che conoscevo da un po' perché fermo una sede anche vescovile, il cardinale, mancava solo l'upapa. E il primo che parla è il prete, che mi aveva cresciuto e mi fa: Giorgio, gli uomini vivono seme per e nelle peccato, ma con questo tuo geseto e te allontani dalla casa del Signore. E dico: scusi padre, ma come cazzo parli? Allora tu, Giorgio, vuoi vivere seme per e nelle peccato, ma con Bacco, tabacco e Venere? Bacco, cene innaffiate da fiumi di vino, tabacco, sigarette, droghe di ogni tipo, inizierà e Venere, donne dalle forme giunoniche con le quali tu ti congiungerai carnalmente. Stavo lì con la bava alla bocca, faceva sì, oliclusi. C'è il vescovo, fino a quel momento in silenzio, mi guarda fisso negli occhi e mi fa: picciotto, mi stai mancando del rispetto. La chiesa è la casa del Signore, casa mia, casa tua, è la casa di tutti, insomma è casa nostra, eh? Ah, carina sta foto. Ah, chi è? Tuo nipote? Sarebbe un peccato gli capitasse qualche cosa, eh? Ma lo vuoi capire che se ti sbattezzi non puoi fare il funerale in chiesa? E vabbè, io padrino, padre, scusa, sono giovane, il mio funerale lo vedo lontano. Abbi fede. La malparata continuava, non riuscivano a convincermi. Si alza il porporato, il più alto in grado sul campo, mi guarda fisso negli occhi e dice: ma dentro sta casa non si mangia mai? Io ho una domanda da fa. Eccellenza, Dio esiste? A me lo chiedi, che ne saccio io? Ma non te preoccupare, quando c'è queste cose non te fa le domande. Dico: ma scusa, ma allora io alla fine che devo pensare? Alla fine di tutto che c'è? Gio, quello che c'è sempre stato, caffè e ammazza caffè, stappa una bottiglia di Montenegro. Numero uno assoluto, Giorgio Montanini. Allora andiamo a Mauro, provincia di Treviso. Mauro dalla provincia di Treviso, vai. Eccomi, allora io vorrei... Bello che Parenzo reagisce. No, sei fortissimo. E fai una reazione normale, no? C'è un po' di carica, 20 e 47, stiamo finendo, amico, fa è ridere, finito, fa dai. Ridere, fa molto, no, fa Mauro, molto ridere, vai, Montanini, Mauro. In grande. Ero lanciatissimo, niente, volevo intervenire per... oppormi con tutte le mie forze a questa visione villosocentrica, pelocentrica della figlia, veramente, perché non si può... No, però ha utilizzato belle espressioni, cioè villocentrica forse dici. Villosocentrica, pelocentrica, sì, di Ilaria, no? Di Ilaria. Esatto, e anche di quella... Diciamo la verità, Ilaria ha fatto un grande appello, ha fatto una grande battaglia, sta lanciando una grande battaglia culturale, l'ascoltatrice di prima. Cioè, la grande battaglia culturale contro il liscio, contro la cultura del liscio, e sapete a cosa mi riferisco. Mauro dice invece che bisogna opporsi con tutte le forze a questa battaglia culturale di Ilaria, giusto? Perché è inconcepibile, io che mangerei figa, colazione, pranzo e cena. Ma non mangerebbe figa, colazione, pranzo e cena, sì, esattamente questo. Con i peli in bocca, ma come si fa? Poi non... Vabbè, Mauro, non ma it's life, amico mio, it's life. Sì, ho capito, ma mi meraviglio... Lo dico in maniera molto elegante, it's life. Sì, ho capito, non si può eliminare la vita, non si può eliminare la realtà, no, insomma, no. Ma no, la realtà, ma la realtà si può modificare proprio piacere. Lo so, si può modificare, infatti. Come si fa a fare del cunnilingus con tutti i peli in bocca? Ma si fa, ti assicuro che si fa, l'hai fatto anche tu e si continuerà. Ma questa gente, ma quando torna a casa? Sì. Cioè Mauro dice quando torna a casa. Sì, Mauro e tutti questi altri miserabili che chiamano, che tornano, quando tornano a casa, ma con che faccia guardano la moglie, barra il fidanzato, il papà e la mamma? Magari è gente che vive da sola. Porconerie che hanno detto in una trasmissione radiofonica. È gente che vive da sola, magari. È gente che vive da sola. Mauro, tu vivi da solo? Certo che sì, ma anche se fossi qua con qualcuno non è che il mio pensiero... Ma sta dicendo delle cose normali? Sta dicendo delle cose normali che tutti pensano e che tutti quanti, su cui tutti ci siamo interrogati. Parenzo, non capisco perché ti stupisci. Comunque andiamo a Bologna. No, ma anche io mi meraviglio di te stesso, Cruciani. Che vabbè, quello che c'entra, qui si entra nel campo dei gusti. Il tuo gusto è uno e il mio gusto è un altro. Claudio, Bologna, vai. Sì, Claudio. Ciao Cruciani, riguardo sbattezzamento, a prescindere da se ci credi o no, Sei d'accordo che il cristianesimo ha influenzato la tradizione e cultura italiana nel bene e nel male? Ecco, siamo passati dal cunnilingus a una domanda, come dire, importante anche filosofica, Parenzo, no? Cioè, sì, il cristianesimo ha influenzato, ha influenzato la cultura italiana, da questo punto di vista non c'è dubbio, caro Claudio. Bene, cioè, bene e male, no? Tu, ma sì, certamente, domanda. Allora? Tu a Natale sei andato in vacanza. Sì, ma Natale è una cosa laica però, caro Claudio, una festa laica, ti voglio ricordare. Ma comunque questo non c'entra niente. Dico, allora, come condizione, se ti vuoi sbattezzare, metti, tu rinunci a tutte le cose, pure quelle positive che derivano dal cattolicesimo. Ma no, ma che c'entra quello? Quello è come è organizzata la nostra società. Poi se si organizza in maniera diversa, a me sta bene lo stesso. Ragazzi, a domani, 18:30, ciao! Cruciani, Parenzo, io ce l'ho pelosa. Non so, io ho chiamato per questo. Ce l'ho pelosa. Sì, ho il triangolo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.